La fenice ha una massa di 5 kg, un calore specifico di 2 joule su grammi per gradi centigradi e la temperatura deve aumentare di 10 gradi Celsius. Quanta energia in joule serve per risvegliarla? Sapendo che questa si calcola moltiplicando la massa in grammi per il calore specifico e per la variazione di temperatura.